Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Arganti e Traghettatore, ben trovati. Il cambiamento digitale è importante per il futuro del nostro paese, anche per le ripercussioni che ha sul sociale, sugli stili di vita, quindi dei consumi. Ma siamo pronti e fino a che punto? Secondo una ricerca dell'ISPO di Renato Mannheimer, che sarà presentata mercoledì a Milano, mica tanto. Sì, è vero, l'85% è informato, per esempio, dell'agenda digitale dell'iniziativa del governo, ma solo il 66% sa che cos'è, il 31% è entusiasta di questa digitalizzazione, il 25% è fiduciosa, ma il 18% no e il 26% è indifferente, soprattutto gli anziani. Un cambiamento duro da gestire. Ovviamente siamo ormai a prossimità delle feste, vogliamo parlare anche noi su Ferry Boat di Natale con Eva Alessi, che è responsabile sostenibilità del WWF. Buongiorno Eva. Buongiorno a tutti. Perché è partita un'iniziativa a 10 ecoconsigli nel decalbero WWF. Cosa sono esattamente? Sono consigli per rendere sostenibile in 10 mosse anche il Natale. Bene, 10 mosse, dichiamoli velocemente perché immagino che toccano un po' tanti aspetti del vivere quotidiano. Cominciamo, numero uno. Direi di sì, di partire dal simbolo del Natale, quindi per avere un albero sostenibile, anche originale, la cosa migliore è rinunciare all'acquisto del classico abete coltivato apposta per le festività e addobbare invece i nostri alberi tipici, anche gli stessi che per esempio abbiamo in terrazzo. In questo modo si risolve il problema di che cosa farne per esempio quando sono finite le feste. Attenzione anche a come addobbiamo l'albero e quindi luminari a basso consumo. Andiamo a vedere la parte di cenone, altra parte estremamente caratteristica. Attenzione alle stoviglie, soprattutto non usare o almeno limitare il più possibile bicchieri e posate usa e getta. Niente foie gras, caviale, aragoste perché causano uno sfruttamento o sofferenze in animali, quindi possiamo assolutamente farne a meno perché in Italia abbiamo tantissimi prodotti locali e di stagione ottimi per preparare anche un cenone. Ovviamente un cenone che deve prevedere una forte riduzione di quelli che sono i consumi di carne. Per i più fortunati che per esempio vanno in vacanza, vacanze responsabili che aiutino anche la biodiversità. Sul sito del WWF, www.wwf.it/turismo, potete trovare tantissime idee per le vostre vacanze che siano anche ecosostenibili. E poi i regali, ovviamente niente specie esotiche o prodotti derivati da queste specie che alimentano un commercio terribile e illegale. Se possibile shopping in bici o con i mezzi pubblici muniti di sporte riutilizzabili, elettrodomestici efficienti e apparecchi tecnologici solo se efficienti, anche in questo caso un sito ottimo è eurotop10.it dove potete trovare tutti i regali tecnologici più efficienti. E infine il regalo più green di tutti, quello che per eccellenza è il regalo per il WWF, è l'adozione di una specie a rischio come il gorilla, simbolo del Green Earth of Africa, oppure per specie più nostrane, lupo e orso, che sono specie simbolo della nostra attività, l'attività del WWF sulle Alpi. Perfetto, in pochissimo tempo abbiamo sintetizzato i 10 ecoconsigli, speriamo che siano in tanti a seguirli. Grazie a Eva Alessi, responsabile sostenibilità del WWF. Grazie a voi. E a proposito di regali, vogliamo suggerirvene un altro: fare un regalo agli altri, quindi attività di volontariato. C'è un sito melpio.com che è nato da pochi giorni, che è stato rilasciato, dove si possono attivare questo regalo. Le associazioni di volontariato possono entrare nel sito, indicare il luogo, l'ora, il tipo di attività da svolgere, anche il numero di persone di cui hanno bisogno. Gli utenti possono in questa maniera verificare le varie opportunità, le varie richieste d'aiuto che ci sono, scegliere quella più congeniale, dare la propria disponibilità e prenotarsi online. Un bel modo di aiutare gli altri, anche perfettamente in linea con il nuovo mondo disegnato da internet. È tutto per la puntata di Ferry Boat. Vi ricordo di cliccare mi piace su Facebook, la voce Ferry Boat - Radio 24. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Pietro Lacorte in regia. Buona giornata.